Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, sono molto contenta di essere qui a parlare di un tema che mi sta particolarmente a cuore. Oggi parliamo della nostra pancia. Nei modi di dire è considerata la sede principale dell'emozione e dei sentimenti, al pari o forse ancora più del cervello. Non a caso quando una persona ci sta antipatica diciamo che ci fa venire il mal di pancia e definiamo viscerale chi affronta le situazioni con grande coinvolgimento emotivo o etichettiamo come un tipo di pancia chi è molto impulsivo. Potremmo continuare citando il mal di pancia d'esame, da colloquio, insomma la pancia ha un cuore. Questo mi affascina in un modo particolare. Cuore inteso però come memoria emotiva, e la ragione di questa particolare sensibilità trova fondamento nella teoria dei due cervelli. Agli inizi del 1998, un professore della Columbia University di New York, Michael D. Gerson, specialista di anatomia e biologia cellulare, pubblica un libro che fa scalpore, The Second Brain, il secondo cervello, frutto di una ricerca di 30 anni. Sappiamo che, per quanto il concetto possa apparire inadeguato, il sistema gastroenterico è dotato di un cervello. Lo sgradevole intestino è più intellettuale del cuore e potrebbe avere una capacità emozionale superiore. I nostri due cervelli, quello encefalico e quello del ventre, devono cooperare. Se non succede, nella pancia e nella nostra testa sopravviene il caos. Allora, nella pancia esiste quindi un secondo cervello, quasi una copia di quello che abbiamo in testa, l'intestino, il cervello addominale. Ma che cosa hanno in comune queste due centraline? Comunicano e come? Condividono gusti, simpatie, antipatie? E nel caso c'è uno stile di vita che li accontenti entrambi e quindi ci regali benessere? 800 24 00 24, chiamateci subito se volete parlare con noi. Se pensate che nella vostra pancia regni un po' di caos, forse proprio perché, come sottolineava Gerson, i due cervelli non comunicano bene, in linea con noi abbiamo il professor Antonio Gasbarrini, associato di medicina interna all'Università Cattolica Sacro Cuore Policlinico Gemelli di Roma. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Che cos'ha l'intestino in comune di simile al cervello che abbiamo in alto? Innanzitutto è un organo ricco di tantissime cellule, è l'organo attraverso cui avviene tutto il processo della digestione e dell'assorbimento degli alimenti, per cui è un organo che ha un ruolo cruciale nell'organismo. È caratterizzato, come avete detto giustamente prima, da un sistema incredibile di fibre neurologiche che lavorano indipendentemente dall'encefalo vero e proprio, il cosiddetto big brain o grande cervello. E questo ha fatto sì che nel 98, ma vi devo dire che poi in realtà ci sono studi pionieristi già dalla fine dell'Ottocento, che fanno vedere che all'interno del nostro intestino esiste un sistema nervoso chiamato sistema nervoso enterico, che ha lo stesso numero di fibre nervose, di neuroni del midollo spinale, cioè un vero e proprio cervello che funziona autonomamente, in maniera autonoma dal cervello vero e proprio, dall'encefalo, è in grado di decidere che cosa assorbire, cosa non assorbire, come comportarsi contro gli agenti infettivi e batterici che continuamente arrivano a contatto col nostro intestino. Per cui un vero e proprio cervello che decide come comportarsi e che cosa fornire poi al nostro organismo, ed è ovviamente in costante contatto col grande cervello che è l'encefalo, il cervello vero e proprio. Che segni ci dà questo secondo cervello quando diventa un po' irritabile, no? Si dice anche del carattere di una persona, si dice una persona irritabile, ma si parla anche di intestino, di colon irritabile. Che sintomi ci racconta? Innanzitutto ci dà dei sintomi che possono essere considerati fisiologici, cioè assolutamente normali. Pensate ad esempio al senso di languore che ha una persona che ha fame, una persona che ha bisogno ad esempio di alzare la glicemia del sangue, e che, attenzione, spesso si può trasformare in irritabilità. Quante persone quando sono affamate, no, e non hanno il cibo, diventano immediatamente, prima hanno il senso di fame e poi diventano irritabili. Sì. Per cui ci può dare dei segnali immediati che in realtà stanno a significare che ci servono delle caratteristiche calorie che bisogna alzare il livello di glicemia. Però tante volte ci possono dare dei segnali che esprimono anche un'emozione, no? Pensiamo a quando una persona è molto agitata, molto nervosa, uno studente che deve fare un esame, che cosa succede? L'intestino in qualche modo accusa questo senso di tensione, può aumentare la sua motilità e questo si può produrre poi con dei crampi addominali e diarrea liberatoria, bisogna liberare l'intestino. O altre volte una sensazione di stress, di grande nervosismo, questo può determinare un aumento delle secrezioni, ad esempio acide, può venire epigastralgia, cioè dolore allo stomaco. Cioè purtroppo questo nostro intestino, che è così ben strutturato per funzionare in condizioni normali, nella nostra vita che è spesso sottoposta a stress, a nervosismo, anche a un'alimentazione non sempre perfetta, comincia a dare dei segnali, a volte positivi, a volte negativi. Raccontateci i vostri 800 24 00 24, mentre dal professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma, che è in linea con noi. Buongiorno professore. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Cerchiamo di capire come i due cervelli, che abbiamo detto devono parlare e comunicare bene, comunicano tra loro. Come si mettono d'accordo, professore? Beh, una volta c'era l'asse Roma-Berlino, c'è un vero e proprio patto d'acciaio tra cervello e intestino. L'intestino è in sostanza una piccola colonia del cervello, come diceva correttamente il collega Gasbarrini, e sono milioni di cellule nervose che dal sistema nervoso simpatico, parasimpatico, metasimpatico stanno in zona per avere un rapporto col cervello, ma per essere anche autonomi, a volte ribellarsi o mandare dei messaggi dal basso verso l'alto. Da neurologo vorrei ricordare due aspetti. In primo luogo il fatto che ci sono alcune malattie neurologiche pure, quindi non alcuni disturbi psicologici, che nell'intestino possono avere a volte una conferma diagnostica, a volte un sintomo. Il primo caso è quello del Parkinson. Chi soffre di Parkinson va incontro ad una stipsi ostinata, non è legata ai farmaci, è legata al fatto che le stigmate del Parkinson, chiamate corpi di Levi, si mettono a comparire proprio nell'intestino, in una zona chiamata plesso mioenterico. E c'è una variante del Parkinson, chiamata atrofia multisistemica, la cui diagnosi può giovarsi di una elettromiografia, cioè di un esame che dimostra come lo sfintere anale non sia più correttamente innervato. Quindi una cosa strana, un disturbo nel cervello che ha nell'intestino la sua espressione. Ma vorrei vederla alla rovescio. Qualcosa che invece dall'intestino vada verso l'alto, o per meglio dire dall'apparato digerente. Uno dei neurotrasmettitori più bizzarri, a volte dolorosi, è la colecistochinina. È una sostanza nata per far contrarre la colecisti e comunque poi la bile verso l'intestino va. Ebbene, questa sostanza è responsabile dei fenomeni di memorizzazione, specie della memorizzazione dolorosa, sì, ma anche dell'apprendimento e dell'effetto nocebo. Quando noi prendiamo una medicina non perfettamente convinti e ne sentiamo tutti i fastidi, è una fastidio intestinale che a livello cerebrale, dove fa il neurotrasmettitore, dà fastidio. È affascinantissima questa storia dei due cervelli che comunicano tra loro. 800 24 00 24, stanno arrivando già molte chiamate, vi daremo subito voce, ma professor Barbanti, se lei fosse il cervello, anzi le faccio fare il cervello dato che è un neurologo, e volesse parlare con il professor Gasbarrini, a cui invece affidiamo la pancia, che cosa gli direbbe? Ma intanto cervello parla con l'intestino. Sentiamo, l'abbiamo perso e intanto no? Professor io Barbanti? La sento bene. Allora bene, vedi, parlando di comunicazione si è già subito spento, come se no, la voce del cervello arrivasse lentamente, no? un po' piano. Devo dire che in realtà il cervello e l'intestino si capiscono anche per sottintesi, per sussurri, per cose non dette. È sostanzialmente una via alternativa intanto di manifestazione delle emozioni. Queste sia in maniera acuta, accennava il professor Gasbarrini alla diarrea, che noi chiamiamo impropriamente diarrea emotiva, sia in senso cronico con il colon irritabile. Sì. Non dimentichiamo che l'intestino è ricchissimo di sostanze, di neurotrasmettitori, dopamina, acetilcolina, soprattutto serotonina, ovviamente di pertinenza anche se non esclusivamente neurologica. Ma una seconda cosa vorrei dire da cervello all'intestino: a volte il cervello comunica all'intestino il dolore. Un esempio è l'emicrania addominale. Cosa fa il bambino destinato ad essere emicranico? Ha spesso dei violentissimi mal di pancia inspiegabili. Cosa succede? Un cervello iperecitabile non trova ancora matura la via del dolore trigeminale, quella che consente di sentire il dolore sulla testa, e trova invece già bella e formata la via del dolore viscerale. Saranno bambini con mal di pancia inspiegabili, diarree, sudano, sembra quasi che stiano per svenire, e che rispondono non agli antispastici ma agli antiemicranici. Quindi dal cervello all'intestino, emozioni ma anche dolori cerebrali. Professor Sgasbarrini, adesso tocca a lei. Lei dall'intestino che cosa dice al cervello, che è il professor Barbanti in questo caso? Ma insomma, deve fare tanta strada la comunicazione. Sì, sì, guardi, quello di cui stiamo parlando è interessante, perché spesso anche in medicina non è che si affronta così bene questo sistema di comunicazione. Però mi viene in mente una cosa peculiare. Abbiamo detto che il sistema nervoso enterico dell'apparato digerente comunica continuamente col sistema nervoso del cervello vero e proprio, e spesso però ha vita autonoma. Ha vita autonoma perché in qualche modo è capace di decidere che cosa assorbire, è capace di difendersi dall'esterno molto bene. E molte volte noi lo stimoliamo in maniera anche strana. Cioè, ad esempio, noi facciamo dei pasti, no? La colazione, il pranzo e la cena. E in qualche modo noi decidiamo da un punto di vista mentale che noi dobbiamo fare un pranzo completo. Nella realtà dei fatti, molto spesso nella nostra vita, se voi prendete il mondo animale, non è che gli animali mangiano in continuazione secondo degli orari ben definiti, ma si regolano anche in base alle necessità. È ovvio che un animale che ha consumato molto mangia di più, ha consumato meno può mangiare anche molto poco. Quindi quello che forse dovremmo abituarci a sentire meglio sono anche gli stimoli cosiddetti fisiologici, cioè non necessariamente uno si deve sedere a tavola e mangiare di tutto perché sei seduto a tavola, e lì molte volte è il cervello, no, che decide: io ho una cena, mi metto lì e mangio tutto quello che devo mangiare. Non è così, bisognerebbe abituarsi un po' di più a sentire che cosa il nostro intestino vuole in quel momento, vuole digerire o vuole assorbire. Quante volte uno a metà di un pranzo è pieno e continua a mangiare perché è seduto a tavola. Dovremmo forse abituarci un pochino di più a sentire i due cervelli, perché i segnali li mandano, e sono convinto che anche la qualità della nostra vita sarebbe migliore, potremmo evitare quello che spesso si fa nel mondo occidentale, l'abuso di calorie, l'eccesso di calorie rispetto alle reali necessità dell'organismo. Vorrei sentire Manuel da Firenze. Buongiorno Manuel, 800 24 00 24, di quale cervello ci vuole parlare? Intanto ringrazio per l'intervento. Come diceva la collega, io ho sofferto per diversi anni di diciamo colite e problemi all'apparato digerente per diciamo problemi psicosomatici legati alla mente, e di conseguenza avevo sempre disturbi, quindi andavo da specialisti, dottori eccetera, però senza nessun risultato tangibile. Sì. Poi una omeopata attualmente la mia dottoressa mi ha indirizzato verso una disciplina orientale che è il Kyaikido. Sì. Che mi ha aiutato a risolvere del tutto questo problema, oltre poi a avere una dieta particolare. Quindi questa disciplina mi ha proprio risolto il problema dell'apparato digerente. Quindi ha messo d'accordo i due cervelli, forse, Manuel. Voglio chiedere conferma ai miei esperti, al professor Sgasbarrini e al professor Barbanti. Manuel ci racconta la sua esperienza: è riuscito a risolvere forse una situazione che a livello così stressante, che avvertiva a livello addominale, e ha come staccato una spina, ha portato il pensiero altrove. Professor Sgasbarrini. Ah no, quello che descrive Manuel capita molto spesso. Allora, dato per scontato che bisogna sempre escludere che sotto non ci sia una patologia organica, perché poi vi ricordo sempre che per un caso così poi magari c'è il caso equivalente della persona con calcolo della colecisti o con una colite ulcerosa, cioè con malattie reali che bisogna diagnosticare. Ma una volta eliminate le classiche patologie organiche, io ritengo che quello che ha fatto Manuel è molto corretto. Bisogna un attimo anche chiedersi se nella propria vita esistono dei fattori stressanti che possano, con un erronea comunicazione tra cervello e sistema nervoso enterico, possono determinare tutta una serie di disturbi. Vi ricordo che il sistema nervoso enterico controlla ad esempio la motilità, quindi molto spesso una persona nervosa, irritabile, piena di problemi non risolti, può avere crampi addominali, può avere stitichezza, a volte avere diarrea, può avere due zone dell'intestino che si contraggono contemporaneamente, quindi danno come una distensione al centro e un senso di meteorismo e crampo addominale. Assolutamente, pertanto, pensare, e se è una tecnica orientale in quel momento, la metodica migliore, che dà più rilassamento, che evita ad esempio l'assunzione di farmaci che a volte sono inutili, è una via eccellente. Io conosco pazienti che hanno risolto le problematiche con lo yoga, o hanno risolto le problematiche anche andando in piscina, e a volte hanno risolto le problematiche facendosi una chiacchierata ad esempio col figlio, perché non riusciva a entrare in comunicazione. Poi i meccanismi della nostra mente, certo, sono molto, ma bisogna, ecco, bisogna cercarle e trovarle. Professor Barbanti, prima di salutarle, perché è una domanda che viene spontanea e suggerita, devo dire, anche da 3 o 4 ascoltatori, perché lo stress che noi solitamente avvertiamo a livello del cervello alto, i pensieri che si dice, no, affollano la mente, la rimuginazione, poi per molte persone si traducono in dolori addominali, tensione, e come si fa a capire quando è un problema dettato dal cervello alto o quando invece è un problema che è provocato invece da un malessere dell'intestino e della pancia? Allora, cercherò di rispondere bene in particolare alla prima parte. Il sistema nervoso nelle sue varie sezioni, il sistema nervoso vegetativo e così via, serve a metterci in rapporto con l'ambiente e quindi ha il compito fondamentale di consentirci l'adattamento. Solo l'adattamento ha consentito ovviamente alla specie di mantenersi. Il nostro cervello emozionale, il sistema limbico, è una parte parzialmente, solo parzialmente conosciuta nei suoi meccanismi, in gran parte legati alla biologia, ma in gran parte legati anche ad alcuni aspetti della vita di relazione, probabilmente nei primi anni. Il cervello limbico comanda tutti i nostri visceri tramite l'ipotalamo e quindi il sistema nervoso vegetativo. Manuel, evidentemente non sapendolo, ha controllato molto bene queste briglie. Si sa per esempio che lo yoga è uno strumento essenziale di controllo in questi casi. Potremmo quindi dire che certamente delle metodiche non necessariamente farmacologiche possono consentire di controllare discretamente bene. Il biofeedback è una di queste modalità che consente per esempio di controllare le variazioni termiche, le variazioni della contrazione, sì, muscolare, e quindi può senza dubbio darci una mano in questo. Volevo solo fare un piccolo accenno piuttosto bizzarro e provocatorio invece relativo alle componenti farmacologiche. Quindi, se è vero che lo yoga è in grado, come le tecniche di rilassamento, di influenzare favorevolmente il primo cervello e il secondo cervello, ci sono dei farmaci comuni a entrambi che hanno cure diversissime nei singoli distretti. Per esempio, i farmaci che colleghi gastroenterologi usano per curare il singhiozzo, per curare la nausea, per facilitare lo svuotamento gastrico, sono gli stessi che i neurologi utilizzano a volte per curare l'ansia e addirittura il delirio. Sono queste. Questa ce la dice lunga, professor Barbanti, sulle relazioni tra i due cervelli. Professore, io la saluto, noi andiamo ai mercati, intanto che lei ci saluta, quindi mercati. Salutiamo il professor Barbanti, poi il meteo, poi di nuovo torniamo qui. Grazie, professore. Arrivederci, salve. 800 24 00 24, tante telefonate, sentiamo subito dopo. Essere e benessere. E siamo tornati insieme perché oggi proviamo ad ascoltare la nostra pancia, borbotte, dolente, tesa. È importante fare attenzione a quello che ci racconta la nostra pancia. Ci sono dei segnali chiari, altri che ci invitano a prestare più attenzione, vanno ascoltati con cura. Ma dicevo, è importante farlo perché, come abbiamo avuto modo di sentire dai nostri esperti, molti dei problemi che avvertiamo anche in altre sedi trovano una spiegazione nell'attività di quello che ormai è definito come secondo cervello. Rob, non che cos'è? Mi sento bene, non lo so, mi non hai mi sistemato sento, davvero? Mi gira tanto la... Siediti. L'ho sposata sotto ipnosi. No, non so, non capisco. Ti vuoi distendere? No, ma sai, da stamattina che ho lo stomaco rovesciato, ho cominciato a... Vuoi un succo di pomodoro? Oh, Rob, io sono meglio... Sì. Perché non prova a mandar giù un po' di questo? È solo pollo lesso. Proprio non sta bene. Non posso mangiarlo, allora, non ho nausea. Se potesse darmi qualcosa per tirarmi su delle ore, sai, io... Ha una nausea tremenda e continui... Io devo andare a Burbank per consegnare un premio a uno show televisivo. Beh, per quello che posso dire io, lei non ha niente, insomma, non ha febbre, neanche sintomi di qualcosa di grave. Non ha mangiato né saccati né frutti di mare. Scusate, ma non ha nausea tremenda. Alvi era alla TV, hanno detto che tutto è a posto, hanno chi ti sostituisce, possono fare senza di te. Abbiamo sentito un breve estratto di Io e Danny di Woody Allen. Professor Gasbarini, lei che l'intestino lo conosce bene, gli faccia un po' da interprete, insomma ci aiuti a capire, partendo dai sintomi, anche quelli meno scontati, quelli che noi facciamo più fatica ad attribuire all'intestino e che invece proprio partono da lui, è lui il colpevole. Beh, interessante, è bello sentire prima il pezzo di Woody Allen. Lì ci sono due chiavi di lettura. La prima è un problema di tensione, di nervosismo, dove l'apparato digerente è solamente una via di fuga per un problema nella realtà di tipo di stress. O in realtà la persona stava veramente male e tutto questo poi andava a interferire con la capacità di vita, col dare un premio. Questa è la classica dimostrazione che sono vere entrambe le cose. I disturbi classici, la nausea, il vomito, il meteorismo, problemi dell'andare di corpo, queste sono sicuramente le cose a cui pensiamo più immediatamente pensando all'apparato digerente. Poi ci sono cose, come ha detto lei Nicoletta, che possono non essere direttamente collegate. Tra esse l'irritabilità vi ho detto che può essere dovuta proprio al fatto che nell'intestino è arrivato poco da mangiare, poche calorie, si abbassa la glicemia, la persona è irritabile, il problema è spesso gastrointestinale. Esistono disturbi che apparentemente uno dice io sono da sempre sono stitico. La stitichezza può essere una problematica legata a alcuni disturbi delle fibre nervose. Esistono momenti di euforia e di depressione. L'intestino può produrre alcune sostanze, si chiamano encefaline, in qualche modo sono endorfino simili, che possono dare grande gioia o possono dare grande depressione. Ci sono persone che quando sono molto affamate sono tendenzialmente di cattivo umore, sono depresse e stanno bene ad esempio dopo un buon pasto. Questi sono tutti piccoli stimoli, piccoli segnali che devono pensare quanto è importante l'apparato digerente e quanto è importante il suo cervello, cioè il sistema nervoso enterico. 800 24 00 24, se volete parlarne con noi, così parla l'intestino secondo la medicina ufficiale. Ma andiamo invece a sentire cosa racconta secondo la medicina cinese. E in linea con noi abbiamo il dottor Maurizio Corradin, medico esperto di medicina cinese, direttore del comitato scientifico di Lefei Resort. Buongiorno, bentornato. Buongiorno a tutti. Dottor Corradin, l'intestino abbiamo capito che è intelligente, ha emozioni, parla con l'altro cervello e parla anche con noi. Beh, è una bella domanda e la risposta è un po' complessa. Allora, in realtà le emozioni per la medicina cinese sono legate più agli organi, quindi agli organi associati. Ma un medico del VII secolo, si chiamava Sun Xinyao, sottolineava che anche i visceri possono avere le emozioni. Per capirci, lo stomaco concorre a determinare il senso di giustizia all'interno dell'uomo e il senso di imparzialità. L'oggetto del nostro argomento, cioè l'intestino tenue, concorre a determinare la nostra integrità e la nostra franchezza. Il grosso intestino concorre a determinare la nostra generosità e il fatto di essere liberali. Quindi, anche se in realtà per questa filosofia medica estremo orientale sono gli organi che sono più legati alle emozioni, ma anche i visceri hanno il loro significato. E concludo, voglio ricordare come in realtà le due medicine siano molto più legate, molto più simili di quanto si possa pensare. Perché? Esattamente, pensi che già nel periodo Han, quindi fra il secondo secolo avanti Cristo e il secondo secolo dopo Cristo, si sottolineava che l'intestino tenue è legato a una sostanza particolare, tecnicamente si chiamano liquidi Ye, ma sono perfettamente sovrapponibili a quello che è l'assetto ormonale così conosciuto nella medicina occidentale, che è una parte integrante della funzionalità appunto del nostro intestino. Abbiamo Maria da Napoli, buongiorno, 800 24 00 24, benvenuta. Grazie. Se lei ci racconta qual è il suo problema o magari qual è la sua ricetta per far andare d'accordo questi due cervelli, noi la ringraziamo. Volevo dire che una ricetta non ce l'ho, io ho una problematica perché sono affetta da colite indeterminata. In un primo momento mi era stata diagnosticata la colite ulcerosa. Sì. Poi la diagnosi è stata cambiata perché andavo in bagno 20 volte al giorno. Ho preso prima del cortisone nella fase forte e poi adesso mi devo stare attenta soltanto al cibo, a quello che ingerisco, naturalmente evitando drasticamente dei cibi. Professor Gasbarrini, e chiedo anche al dottor Corradin, perché vorrei dare una lettura, una duplice lettura di tanti problemi che mi segnalano i miei ascoltatori. Maria alla fine deve controllare la sua dieta, ma non è venuta completamente fuori dal suo problema, perché, come si diceva un tempo, la pancia è un po' la tomba del medico. Perché fondamentalmente è un organo che, non dimentichiamoci, l'intestino è lungo 9 metri, se viene steso, se lo stendiamo completamente, ha l'estensione di un campo da tennis, per cui è difficile trovare delle alterazioni in un organo così grande, così esteso, e che spesso non si riesce a diagnosticare e a vedere. Calcolate che l'interno dell'intestino tenue, quei 6 metri in cui l'intestino è arrotolato, molto spesso non si riesce ad andare dentro, le sonde endoscopiche non riescono ad entrare, non riusciamo a prendere dei campioni, quindi questo è il primo problema. Però non dimentichiamoci che non bisogna neanche però nascondersi dietro questo problema. In realtà se un medico attento, che utilizza tutte le arti della medicina, che possono essere gli esami endoscopici, gli esami d'immagine, gli esami radiologici, gli esami del sangue, ma anche il colloquio col paziente, andare a vedere all'interno di quel paziente che tipo di problematiche ha avuto nella propria vita, che problemi ha sul lavoro, quanto incidono lo stress, problematiche economiche, un'alimentazione irregolare. Ecco, io credo che nel concetto vecchio, storico di medicina olistica, che comprende tutte le versanti dei problemi delle persone, per me la risposta si trova. Io alla parola colite indeterminata fondamentalmente non credo più di tanto, perché molto spesso in realtà nasconde il non essere entrati nel problema della persona, e credo che nella maggioranza dei casi una medicina integrata che comprende tutto, compreso l'assetto psicologico, la valutazione delle problematiche, alla fine una risoluzione la dà la persona. Ricevuto, quindi non crediamo, quando le diagnosi sono così un po' nebulose, ecco lì bisogna andare a trovare un esperto che si prenda cura di noi, ci insegni soprattutto a prenderci cura di noi. Dottor Corradin, molti, anche la stessa Maria, quando la pancia si lamenta, provano a cambiare dieta. Chi si mette in bianco, chi prova con le fibre, chi fa uso di yogurt. Anche la medicina cinese, attraverso la dietetica, suggerisce di prevenire e curare disturbi e malattie con gli alimenti. Ci sono 5 sapori che ruotano oltre alla classificazione Yin e Yang. Insieme al dottor Corradin ne parliamo subito dopo le informazioni sul traffico. Cerchiamo di capire se esiste una dieta che faccia bene alla nostra pancia, al nostro intestino, quali alimenti preferire, quali limitare, quali abbinare. Volete saperlo? Chiamateci 800 24 00 24. A tra poco. Essere e benessere. Dottor Corradin, sono 5 i sapori: agro, amaro, dolce, piccante, salato? Esattamente. In realtà anche per rispondere a questa domanda è sempre appunto complesso, perché bisogna... Insomma, faccio delle domande difficili, complicate. Sì. Nel senso che, no, ma mi spiego, esistono dei sapori che per la medicina cinese impattano elettivamente sui diversi organi, ma quindi l'acido che impatta sul fegato, l'amaro che impatta sul cuore, il dolce che impatta sulla milza pancreas, il piccante che impatta fondamentalmente sul polmone e sul viscere collegato che è il grosso intestino, e il salato che impatta sul rene e sul viscere collegato che è la vescica. Sì. Ma in realtà la dietetica energetica sottolineava diversi aspetti. Innanzitutto diceva, esistono degli alimenti, la frutta e la verdura, che servono da adiuvanti e formano da riempimento. Sì. Esistono degli altri alimenti che sono i cereali, che sono fondamentalmente nutrienti, e poi esistono degli alimenti come le carni che sono tonificanti. Qual era il significato di tutto questo? Che innanzitutto era necessario pensare al sapore degli alimenti, ma poi era anche necessario interessarsi e proporre un'intensità di sapore, per cui ci sono degli alimenti, detto in poche parole, come la frutta, la verdura, quindi quella che in Occidente chiamiamo alimentazione leggera, fondamentalmente vegetale, che è un'alimentazione da utilizzare tutti i giorni, ovviamente quando non c'è una patologia specifica. Certo. Altri alimenti come i cereali, che sono nutrienti e concorrono quindi nel benessere quotidiano dell'individuo. Altri alimenti ancora, e vi ricordo che stiamo parlando del secondo secolo avanti Cristo, come le carni, che vanno sì utilizzate ma con dovuta moderazione. Aggiungo, per completare il quadro, che per la dietetica energetica esiste un'energia che ha la funzione specifica di permettere la corretta digestione. Questa energia si forma a partire da un'alimentazione corretta e leggera e da una respirazione corretta e leggera, perché respirare ed alimentarsi per la dietetica energetica sono espressioni diverse di una stessa entità. Quindi frutta e verdura, cereali come nutrimenti e carni. Carni rosse, bianche, abbiamo delle... No, certamente, anche qui l'intensità era essenziale, le carni bianche in modo particolare, si diceva in modo un po' poetico, utilizzare prevalentemente carni di animali a due zampe, possibilmente, fa un po' sorridere, nella nostra era animali felici, cioè animali che vivessero liberi, che vivessero a terra, Vincent, lo sentiamo ancora il dottor? Sì, scusi, dottor Corradini, no, pensavo di averla persa. No, dicevo, quindi animali che vivevano a terra, che vivevano in ambienti sani e non coltivati ovviamente in batteria, anche se mi rendo conto che per le necessità moderne tutto è molto più complicato. Professor Gasbarrini, siete tutti d'accordo? Le indicazioni che ci ha dato il dottor Corradin, che risalgono a secoli e secoli fa, in fondo sono quelli su cui si basa ancora la scienza della nutrizione oggi. Assolutamente sì, di fondo sono sempre le stesse cose, no? Frutta, verdura, quindi alimenti freschi, vitamine. E la carne sì, ovviamente non farne un abuso, perché poi nell'alimentazione tradizionale dell'uomo non è che era prevista tutti i giorni, si prendeva difficilmente quando eravamo coi nostri antenati. Il vero problema, però, ribadisco, è il concetto di maniera corretta e soprattutto sentire il nostro organismo, cioè molte volte noi mangiamo solamente per una forma compulsiva, spesso siamo guidati dal fatto che siamo a tavola con le persone, dobbiamo bere per motivi sociali o mangiare per motivi sociali. Sentire più il nostro organismo, il nostro intestino ci manda continuamente dei segnali anche di sazietà, abituarci a sentirli, perché solamente anche il nostro intestino, non solo il nostro cervello, quello centrale, riusciremo ad avere una dieta sana e che poi faccia bene veramente all'organismo. Io andrei a Napoli perché ci aspetta Vincenzo all'800 24 00 24. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno. Senta, io premetto di avere, non so se questo fa influenza all'aspetto che stiamo parlando, un calcolo al rene destro, 3 millimetri. Sono stato operato di appendicite quando ero più piccolo. Sì, va bene, ma Vincenzo, veniamo all'oggi. Dato che ho un'infiammazione, il medico mi dice sempre da colon irritabile o qualcosa del genere, mi diceva che è anche legato a un processo di ansia, voleva darmi dei medicinali anche per questo, ma io non Lei ha detto, Vincenzo, non li prendo. Ha detto così, ecco. Anche se adesso per un altro problema sto prendendo diciamo, un medicinale, inizia con SPA, non so se posso dire il nome. Senta, comunque lei il problema ce l'ha ancora, medicina sì. Non ne prende, il medico mi sembra insomma che le abbia suggerito, forse è un problema di ansia, e, insomma, dottor Corradin, un caso abbastanza frequente, specie di questi giorni, no? Tante volte noi andiamo dal medico, il medico ci dice sì, però lei ha qualche problema, è un po' ansiosa, se la prende un pochino più comoda, cosa direbbe un medico e cosa dice, perché lei lo è un medico di medicina cinese? Beh, direbbe quello che il collega diceva pochi istanti fa, cioè prima di tutto la presa in carico della propria vita, cioè l'intestino ci parla e noi e l'uomo dovrebbe essere capace di dare risposte ragionevoli alle proprie esigenze, se ovviamente sta. Abbiamo un po' perso questa abitudine e noi ogni giorno qua a Essere Benessere cerchiamo di riscoprire questa capacità che ciascuno di noi ha, ma che forse ha dimenticato, cioè quella di ascoltarsi. Dottor Corradin, ci dia una dritta. Sì, no, e questo è il punto di partenza. Poi la capacità di dare delle risposte, cioè voglio dire, se un individuo è un po' nervoso, facciamo regolarmente attività sportiva, poi siccome le cose si innescano le une con le altre, perché si diceva anche prima, è vero che l'attività, il nervosismo altera l'intestino, ma è vero anche il contrario, cioè che un'alimentazione poco corretta a sua volta aumenta i livelli di nervosismo, diventa un circolo vizioso che è necessario interrompere. Lo possiamo interrompere ovviamente con i farmaci, lo possiamo interrompere con l'agopuntura, lo possiamo interrompere con la fitoterapia, abbiamo delle piante ad esempio che hanno una funzione soft e hanno la capacità di rilassare la muscolatura. Penso alla melissa, all'angelica arcangelica, ad altre piante ancora, ma ancora di più abbiamo la possibilità di modificare un po' il nostro stile di vita, dormiamo un numero sufficiente di ore, ci stiamo alimentando bene, stiamo facendo una corretta attività fisica che ha questa capacità di aumentare le endorfine, ma senza arrivare a fare il record del mondo e quindi dei risultati eclatanti, ma semplicemente con un'attività fisica quotidiana, e lo dico da specialista in medicina dello sport, abbiamo visto che è in grado di aumentare in modo significativo quegli ormoni, le enchefaline, le endorfine che ci danno questo senso di benessere, cioè quello che si voleva sottolineare. Stiamo prendendo in carico la nostra vita, cercando di dare delle risposte prima che con i farmaci, con il nostro stile di vita. E allora, se intanto voi provate a rispondere, io saluto Benedetta Spada, insegnante di yoga. Ciao Benedetta. Ciao Nicoletta, salve a tutti. Ecco, noi iniziamo, tanto che pensiamo a questa risposta, a fare una cosa molto molto semplice, a respirare, perché il dottor esatto. Corradin sosteneva che, ci ha ricordato che quello che mangiamo, anche la respirazione è molto certo. importante. Abbiamo, intanto io saluto il professor Gasbarrini, che ringrazio per essere stato con noi, il dottor Corradin, grazie anche al dottore. Noi ci concediamo questi 40 secondi che ci separano dalla chiusura della trasmissione insieme a Benedetta Spada, respiriamo con l'intento di far arrivare anche l'energia vitale del nostro respiro anche nella nostra pancia. Vai Benedetta. Noi spesso dimentichiamo di respirare correttamente perché ci insegnano a respirare dimenticando la pancia, invece quando inspiriamo cerchiamo di essere consapevoli di inspirare gonfiando, espandendo l'addome, proprio portando la respirazione verso la nostra pancia, e quando espiriamo svuotiamolo completamente, alleggerendolo. Ricordiamoci di fare questo durante ogni attimo della nostra giornata, anche quando aspettiamo l'autobus oppure quando magari appunto stiamo preparando la nostra cena. Ricordiamoci di prenderci cura di noi, coccolandoci magari in alcuni momenti, accovacciandoci, portando le ginocchia all'addome, magari seduti a terra oppure distesi sul letto, e dondolandoci un po' con il ritmo del nostro respiro. Il respiro è la miglior medicina per allentare ogni possibile contrazione. E noi dobbiamo salutarci, Benedetta, ma invitiamo i nostri ascoltatori, concentratevi sul vostro respiro e concentratevi, perché domani alle 11 io vi aspetto qui. Buona giornata. Essere e benessere.